Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Due giorni in Romana per il presidente della Commissione Europea Juncker. Oggi incontrerà il premier italiano Matteo Renzi, che tra pochi minuti vedrà anche Angela Merkel. Il tema, come sentivamo anche poco fa, ancora quello delle frontiere e della gestione dell'immigrazione. Allora cominciamo da qui con Alessandra Schepisi. Sì, Anna, vertice che inizia proprio in questi minuti, puntualissimo. Nel cortile d'onore poco fa sono stati eseguiti gli inni italiani e tedesco dalla banda dell'esercito. È prevista anche una colazione di lavoro al termine della quale ci sarà una conferenza stampa, un vertice blindato, cioè un imponente schieramento di forze dell'ordine in tutta la zona. Sul tavolo le proposte italiane sul fronte dell'immigrazione, i temi di politica economica, la crescita, ma anche il rischio Brexit. Di certo si parlerà della minaccia austriaca di chiudere il brand, un'iniziativa che Renzi ha liquidato ancora ieri come propaganda pericolosa, ricordando che un giudizio negativo è arrivato anche dal ministro degli esteri tedesco e dalla stessa Unione Europea. Subito dopo a Palazzo Chigi arriveranno il presidente della Commissione Juncker e il presidente del Parlamento Europeo Schulz, e al termine del colloquio alle 18.30 i tre si sposteranno in Campidoglio, nella sala degli Orazi e dei Curiazzi, dove furono firmati i trattati del 57, a parlare del futuro dell'Unione Europea, un dibattito organizzato dal premio Carlo Magno e dall'Istituto Universitario Europeo. E poi l'incontro a quattro occhi con Tusk, presidente del Consiglio UE, si terrà invece domattina, quando Merkel si sposterà in Vaticano per il premio Carlo Magno a Papa Francesco, e in quell'occasione il pontefice leggerà un importante discorso sui temi europei davanti dunque alla cancelliera tedesca, presidente dell'Europarlamento, e al re spagnolo Felipe IV. E da Roma è tutto. Grazie allora ad Alessandra Schepisi. Sentivamo domani l'occasione, appunto, la consegna a Papa Francesco del premio Carlo Magno. Premo che ha anche una sezione giovani e che quest'anno è andata all'Italia. Va all'Italia il premio Carlo Magno per i giovani, collegato a quello che verrà consegnato a Papa Francesco. Il Carlo Magno per giovani premia progetti elaborati dalle nuove generazioni che promuovono la consapevolezza e l'identità europea. Ad aggiudicarselo un progetto studentesco italiano per i profughi, che offre sostegno a organizzazioni volontarie presenti in altri paesi europei nell'integrazione dei migranti. Il progetto italiano si chiama Integrate, è stato creato da IESEC Italia, un network globale di studenti universitari e neolaureati, e offre la possibilità ai giovani sotto i 30 anni di trascorrere un periodo di 6 settimane in uno dei centri attivi per l'accoglienza e l'integrazione dei rifugiati in Italia presenti in 10 città. Ad oggi sono circa 140 i volontari provenienti da 12 paesi e 60 le ONG impegnate nel supporto di circa 3.000 rifugiati. Le attività svolte vanno da quelle didattiche destinate ai bambini a workshop professionali per adulti in cerca di lavoro. Gli altri progetti premiati sono stati Alla ricerca di Carlo Magno per la Grecia, un gioco per tablet su Carlo Magno e l'integrazione europea, e Young European Council della Gran Bretagna, una conferenza annuale internazionale che riunisce i giovani appassionati del futuro dell'Unione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In missione a Washington invece l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, in occasione della giornata dell'Europa che sarà il 9 maggio ma celebrata in anticipo al di là dell'oceano. E Federica Mogherini ha invitato a rispondere all'appello di Barack Obama per un'Europa forte e unita, avendo più fiducia in noi stessi, ha detto. Forse per la prima volta, aggiunto, nella sua storia l'Europa rischia di tornare indietro se Londra decide di uscire, se rinunciamo alle nostre frontiere aperte, se dimentichiamo cosa significa solidarietà. Questi li sentite alcuni passaggi del suo discorso e dopo anche l'incontro con il segretario americano Kerry. Mogherini, che oggi sarà invece a Pristina all'indomani della proposta della Commissione Europea di abolire l'obbligo del visto per i cittadini del Kosovo in viaggio nell'area Schengen. Noi però per il momento ci fermiamo qui, ancora una buona giornata, vi ricordo come sempre l'Europa vi aspetta questa sera con Effetto Notte e oggi con lo spazio Euzone. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.